Speciale, la politica nel tunnel. Le relazioni che mi sono state presentate questa mattina faranno parte delle mie consegne al nuovo Presidente della Repubblica, oltre che essere oggetto in questi giorni della mia personale ulteriore riflessione. Una selezione delle questioni di maggior rilievo da affrontare nell'uno e nell'altro campo, un elenco ragionato di possibili linee di azione, lasciando alle forze politiche l'apprezzamento dei margini di convergenza e di divergenza su proposte da considerare ai fini di un impegno di governo. Buon pomeriggio da Elisabetta Fiorito e dalla redazione romana di Radio 24. Quello che avete sentito è il capo dello Stato Giorgio Napolitano che annuncia la fine del lavoro dei saggi. Ricordiamo due gruppi, uno politico istituzionale, uno socio economico. Ricordiamo anche ai radioascoltatori che ci possono inviare un sms al 349-238-6666. Che cosa hanno deciso i saggi? Che occorre una nuova legge elettorale. La Consulta ha anche detto che il Porcellum è a rischio costituzionalità, magari un ritorno al Mattarellum ma senza scorporo. Bisogna superare il bicameralismo perfetto, conflitto di interessi, aiuti alle piccole e medie imprese, riduzione del numero dei parlamentari, federalismo fiscale, ma anche finanziamento ai partiti che è ineliminabile per garantire la correttezza della competizione democratica e per evitare che le ricchezze private possano condizionare l'attività politica. Questo è il risultato del lavoro dei saggi. Intanto nel Partito Democratico c'è da segnalare la discesa in campo di Fabrizio Barca, ministro per la coesione territoriale, che lancia un manifesto per il rinnovamento. Il governo, in 16 mesi di governo, ha detto Barca, non c'è democrazia senza partiti robusti, questo è quello che ho appreso. E allora sentiamo cosa ne pensa il vicepresidente del gruppo PD alla Camera, Andrea Martella. Ma il Partito Democratico ha sicuramente delle risorse, delle grandi personalità con le quali è necessario confrontarci e abbiamo sicuramente Renzi che è in campo, c'è Bersani impegnato nel tentativo che lo ha visto protagonista e c'è naturalmente anche Barca che è stato un ottimo ministro di questo governo tecnico e il quale intende dare un contributo. E il fatto che dica il Partito Democratico deve smettere di dire che è di centro-sinistra, è un partito di sinistra, basta con queste ipocrisie, sempre una frase di Barca? Ma io penso che, come lo abbiamo pensato, il Partito Democratico è un partito di centro-sinistra che mantiene al proprio interno un pluralismo di posizione. Questo è il Partito Democratico. I saggi hanno rivelato le loro considerazioni, consigliano una sola Camera e però di non abolire il finanziamento ai partiti. Il fatto che si proponga di superare il bicameralismo perfetto, di fare un'unica Camera, mi pare molto giusto. È anche realistico il fatto che chi dice si abolisce il finanziamento dei partiti tout court, i partiti per esistere in maniera trasparente devono e possono avere con dei controlli in termini limitati anche un proprio finanziamento. Senta, ma che ne pensa invece delle larghe intese che propone anche Napolitano? Berlusconi addirittura è pronto a votare un PD al Quirinale pur di fare un governo? Ma intanto noi ci stiamo concentrando sul fatto che dobbiamo fare un capo dello Stato che è il garante dell'unità nazionale e quindi deve essere eletto con un metodo, cioè quello della massima convergenza. Poi se con questo metodo si eleggerà un Presidente della Repubblica, credo sia possibile anche formare un governo. Del resto tra un governissimo e le elezioni ci sono sicuramente delle strade possibili. Le elezioni adesso sarebbero una sciagura perché non rappresenterebbero la risoluzione dei problemi del paese. Quirinari online che però hanno avuto un po' una debacle perché ci sono stati gli hacker, ha un'opinione in proposito? Sì, mi sono fatto l'opinione che il Movimento 5 Stelle è a furia di stare sulla rete, che pure è una cosa giusta, non sa più che pesci prendere, è sembrato abbastanza inconcludente e fallimentare questa esperienza, anche l'esperienza che hanno fatto fin qui nelle istituzioni. E questo era Andrea Martella del Partito Democratico, l'abbiamo sentito anche sull'Equirinario online rispetto al Movimento 5 Stelle. Intanto in un sms al 349-238-6666 un ascoltatore ci chiede cosa hanno detto i saggi per gli esodati. Bene, i saggi hanno detto che le emergenze sono proprio gli esodati e una moratoria sui mutui. Intanto il PDL apre anche a un capo dello Stato non di centrodestra. Silvio Berlusconi in un'intervista a Repubblica precisa che non esiste la questione salva condotto, va bene anche un PD al colle, ma solo se si firmano le larghe intese. Intanto il PDL si prepara alla manifestazione di domani a Bari. Sentiamo a questo proposito Daniela Santanchè. Si parte per Bari, grande manifestazione. Contro cosa? Contro la giustizia? Contro niente, a favore dell'Italia e degli italiani. In questo momento bisogna essere non contro qualcuno, ma a favore di ciò che serve all'Italia e agli italiani. Napolitano ha rilanciato le larghe intese, ha detto si può fare un governo solo dalla collaborazione dei partiti. Beh, Napolitano, essere persona di buon senso, la pensa come la pensano la maggioranza degli italiani. Il presidente Berlusconi ha anche un po' aperto alla possibilità che il capo dello Stato non sia proprio un rappresentante del centrodestra, può essere anche un rappresentante del centrosinistra, l'importante è fare il governo poi. Ma il presidente Berlusconi ha messo ancora una volta al centro l'amore per il paese e il suo senso di responsabilità. Non è che ne facciamo una questione di poltrone, ma ne facciamo una questione che il governo e il Presidente della Repubblica, se devono essere fatti insieme, insieme si fa tutto. Che cosa ne pensa di questa discesa in campo di Fabrizio Barca nel PD? Ma mi lascia indifferente, sono abituata a guardarmi a casa mia, vedo di là che hanno già un sacco di problemi, c'è Renzi da una parte, D'Alema da un'altra. Cioè, insomma, mi sembra che l'agibilità di Bersani nel suo partito si riduca ogni giorno di più. Una Camera, il finanziamento non eliminabile, questa è la ricetta dei saggi per l'Italia. Io sarei molto contenta che ci togliessimo da questo bicameralismo perfetto, che ormai siamo rimasti l'unico paese in Europa. Io sono per togliere il finanziamento pubblico ai partiti, fare una legge sulle lobby e contare sul finanziamento privato. Che ne pensa invece di queste quirinarie annullate, poi si rivota perché ci sono state degli hacker che hanno assalito il sito di Beppe Grillo e del Movimento 5 Stelle? Un po' ridicolo, e mi sembra gente che arriva da Marte. Il Presidente della Repubblica è una figura fondamentale, ci vuole una persona politica che sappia che cos'è la politica, cioè cercare via internet i nomi che insomma stavano circolando. Mi sembra un po' che ci sarebbe bisogno anche un po' di serietà nell'affrontare i problemi. E questa era Daniela Santanchè, e proprio sull'attacco al sito di Beppe Grillo per l'Equirinario online lanciate dal Movimento 5 Stelle ci spiega tutto il deputato Giorgio Sorial, che è anche ingegnere informatico. C'è stato un attacco hacker, quindi c'è stata un'anomalia nel procedimento durante la votazione. Questa anomalia è stata rilevata, ci sono dei log e dei report che puntualmente rilevano tutto ciò, e quindi è stato per l'appunto rilevato, e per una questione di affidabilità, per una questione di avere un'affidabilità al 100% della votazione, questa verrà ripetuta oggi. E questo era Giorgio Sorial del Movimento 5 Stelle. Non molto rivoluzionari, ci scrive un ascoltatore sui saggi. Per il momento è tutto, un saluto da Elisabetta Fiorito.